Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Maurizio Sacconi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a Radio 24, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Dunque la nostra chiacchierata fino alle 10 parleremo dei temi ovviamente in prima pagina oggi, a cominciare dalla crisi globale, ma anche del mercato del lavoro, la riforma dei contratti e, come detto appunto, ministro anche della salute, quindi se avete domande sulla salute, sulla sanità, sulle politiche sociali, sul welfare, eccoci qui. 800 24 00 24, risponderà alle nostre, alle vostre domande il ministro Maurizio Sacconi. Alle 9:10 minuti, 800 24 00 24, per intervenire. Ospite oggi il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi. Ministro, abbiamo sentito che le borse hanno aperto male, si parla di recessione. Il governatore Mario Draghi di Banca Italia ha detto: la recessione c'è, i rischi ora sono per le famiglie e le imprese. Le faccio prima una domanda sulla questione delle famiglie. Tra l'altro ieri l'OCSE, come avrà visto, ha parlato di un paese dove sempre più aumenta il divario tra ricchi e poveri. Dall'opposizione, dei sindacati dicono: perché per esempio non detassare i salari? È una misura sulla quale lei si è già espresso, mi pare, negativamente. Perché? Ma intanto la mia contrarietà non è alla detassazione dei salari, ma alla proposta della sola CGIL, quella di spalmare su tutti i salari la riduzione della pressione fiscale, e con l'effetto inevitabile, date le limitate risorse che possiamo mettere in campo, e sono quelle che corrispondono peraltro all'altra misura di cui dirò tra poco, di un beneficio impercettibile da parte di ciascun lavoratore, senza nessun effetto quindi sui consumi e tantomeno sulla produttività. In alternativa, invece, CISL, UIL, Confindustria, e noi condividiamo con essi questa ipotesi, propongono di prorogare la tassazione secca al 10%, quindi una tassazione agevolata, conveniente, perché anche definitiva, di tutte quelle parti del salario che si aggiungono a quello contrattuale, perché corrispondono a flessibilità organizzativa dell'impresa, nel caso degli straordinari, o corrispondono invece a premi, incentivi, accordi comunque in azienda, in base ai quali vengono erogate delle somme che si presumono collegate ai risultati dell'impresa, alla maggiore produttività. In questo modo i percettori hanno un reddito aggiuntivo molto più significativo, che si dovrebbe tradurre anche in consumi, e soprattutto si spinge la produttività. Si realizza insomma quel collegamento tra salari e produttività che da anni andiamo auspicando, senza ancora essere riusciti nei fatti a realizzare diffusamente. Meglio detassare dunque, lei dice, quella percentuale di salari di produttività, sostanzialmente allargandoli, sì, il 10%. Salari, sì. Le chiedo, la UIL per esempio ha detto, Angeletti ha fatto anche i conti, almeno detassare la tredicesima per far aumentare i consumi. È un'ipotesi. Mi permetta, vorrei ricordare una cosa che mi sembra viene dimenticata qualche volta. La manovra è già stata fatta. Noi non abbiamo disponibilità aggiuntive, e nel contesto della manovra si è messo già nel conto di prorogare anche per il 2009 la tassazione secca al 10%, agevolata al 10% delle parti variabili del salario. Altro non c'è, perché noi la manovra l'abbiamo anticipata nel mese di giugno, prevedendo proprio la crisi dei mercati finanziari. Dobbiamo riconoscere a Tremonti di avere segnalato tempestivamente la possibile involuzione nei mercati finanziari, e quindi volendo attrezzare il paese a questa crisi nella seconda parte dell'anno, in modo da non avere i saldi di bilancio aperti. Se negli altri anni a quest'ora avremmo avuto il Parlamento impegnato in una complessa attività di definizione della legge finanziaria e della legge di bilancio. Per fortuna di fatto questo è alle nostre spalle, perché la manovra realizzata a giugno-luglio ha consentito che oggi la finanziaria sia una mera semplice ricezione di quella manovra stessa. Sì. Quindi non ci sono risorse aggiuntive, non ci sono, perché è prioritaria la stabilità dei conti pubblici. Visto che lei ha anticipato la questione, insomma, dei salari di produttività, questo comporta la questione della contrattazione aziendale, ma ci arriveremo tra un attimo. Prima però le chiedo invece sul fronte delle imprese. Ieri il presidente di Confindustria ha detto ci vuole soprattutto come priorità garantire le linee di credito, i flussi di credito dalle banche alle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. C'è la grande discussione, anche oggi il Foglio ne parla, e parla anche di diverse anime all'interno del governo, per esempio sul fronte rottamazioni. Lei è favorevole o contrario di principio alle rottamazioni? Si parla soprattutto del settore auto e del settore elettrodomestici, settori fermi dal punto di vista dei consumi. Guardi, io condivido quello che ha detto la Presidente Marcegaglia. È necessario sostenere diffusamente tutto il sistema delle imprese, a partire da quelle artigianali, piccole, medie, attraverso la garanzia della liquidità ad esse. Perché la recessione, se si produce, nasce proprio dal fatto che viene meno la liquidità delle imprese, che fanno fatica a capitalizzarsi da un lato, e dall'altro il credito potrebbe essere loro razionato, per non dire fortemente ridimensionato. Invece noi dobbiamo fare in modo, e in questo senso abbiamo già operato e ulteriormente opereremo, affinché tutte le imprese possano disporre di quella corretta liquidità che ad esse deve essere riconosciuta in funzione delle loro buone caratteristiche, dei loro buoni progetti. Come può farlo il governo? In parte il governo lo ha fatto già, nel momento in cui ha garantito stabilità al nostro sistema creditizio, ha garantito liquidità al nostro sistema creditizio, ha creato condizioni perché a sua volta esso possa garantire liquidità al sistema delle imprese, e probabilmente questa strada può essere ulteriormente rafforzata, e a ciò si sta riflettendo. Quindi il tema è come diffusamente evitare ciò che ieri il governatore Draghi ha detto potrebbe essere alla base della recessione: il razionamento del credito. Dobbiamo evitare ciò, sostenere i consorzi fidi, le cooperative di garanzia, tutto ciò che può concorrere alla capacità operativa delle imprese. Le chiedo però sulla questione, perché ad esempio il ministro Brunetta un paio di giorni fa ha detto a me le rottamazioni non piacciono. La sua idea personale, poi si vedrà cosa metterà allo studio il governo, l'idea della rottamazione in sé, a lei, secondo lei è una soluzione tampone, è una soluzione efficace oppure no? Ma io non voglio entrare nel merito di una singola misura, io mi limito, ripeto, a sottolineare che dobbiamo pensare alla generalità delle imprese. Di questo in effetti stiamo discutendo. Ricordo ancora che abbiamo già annunciato un incontro con le banche e con le imprese contemporaneamente, anche per creare una sorta di cabina di regia, perché tale da poter monitorare l'effettiva disponibilità delle aziende di credito a continuare a sostenere le imprese senza rattrappirsi e con ciò determinare effetti recessivi. Poi nella collegialità di governo si discuterà, ma quello che conta è questo. Come ha detto la Presidente Marcegaglia, la mia opinione è la stessa, la mia, ma devo dire il governo nel suo insieme condivide l'approccio della Presidente Marcegaglia. Lei invece un paio di giorni fa in un'intervista al Riformista ha detto di certo non mi piacciono, credo, gli aiuti, il titolo era basta aiuti alla Fiat, non so se ma se questo erano... era più il come dire l'enfasi di un giornalista che non era sbagliato il titolo, però non le piacciono gli aiuti di settore, cioè gli aiuti a un settore specifico piuttosto che alla globalità del settore imprenditoriale. Questo almeno penso che sia giusto agire sulla generalità del sistema. C'è il primo ascoltatore all'800240024, Andrea da Cesena, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno al ministro. Io volevo chiedere, per aiutare magari le famiglie, si potrebbe fare qualcosa per rinnovare i contratti di lavoro. Noi nel settore commercio siamo senza contratto da 2 anni e mezzo, e con tutto quello che ne deriva. Dovremmo avere già fatto 2 contratti, perché ogni 2 anni si rinnova il contratto. Noi siamo ancora col contratto del 2005 praticamente, In più parla di sistemi, la produttività, quello, quell'altro, però il fiscal drag da qualche anno non ci viene restituito. Ci vorrebbe forse un po' più di praticità e soprattutto darci almeno quello che ci spetta. Va bene, grazie Andrea. Sentivo il ministro che... Il contratto del commercio è stato sottoscritto poco tempo fa, qualche mese fa, non da tutte le organizzazioni, ma è stato sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni. A proposito di riforma del modello contrattuale, Ministro, vogliamo parlare di questo tavolo ovviamente che va avanti. Sappiamo che la posizione dal punto di vista del sindacato più critica rispetto al documento di Confindustria è quella della CGIL. Le chiedo, secondo lei è davvero ipotizzabile poter firmare una riforma dei contratti senza la firma della CGIL, che è il sindacato numericamente più importante in Italia? Premetto che il sindacato è la prima organizzazione, ma nel contesto di organizzazioni sindacali che tutte sommate rappresentano circa un terzo dei lavoratori, è minoritaria rispetto alla somma delle altre. Ma questo non è questo il problema. Noi dobbiamo auspicare che tutte le organizzazioni possano condividere il modello contrattuale. Vale una regola, credo, molto lapalissiana. La cosa migliore è che tutte le organizzazioni sindacali partecipino con le organizzazioni di tutte le organizzazioni di datori di lavoro nella definizione di un nuovo modello di contrattazione più semplice e più efficace tanto per le imprese quanto per i lavoratori. La cosa peggiore è che non se ne faccia nulla, perché questo modello contrattuale è stato giudicato superato dalla commissione del ministro Giugni, il padre dello Statuto dei lavoratori, già nel 1997, 11 anni fa. Le parti hanno avviato il negoziato che ora si dovrebbe concludere 4 anni fa, quando il presidente Montezemolo convocò un tavolo presso la sede di Confindustria nel luglio del 2004. E non se ne è fatto fino ad ora nulla. Adesso sembra che tutti convergano intorno ad una soluzione che mi sembra ragionevole, con una posizione perplessa della CGIL, mi sembra nemmeno contraria. E io confido che alla fine questa organizzazione rifletta, voglia evitare anche l'isolamento rispetto a tutte le altre organizzazioni della rappresentanza e che ci siano le condizioni per un consenso di tutti. E questo sarebbe, diciamo, l'ideale, come ha detto lei, cioè che tutti siano d'accordo e tutti firmano. Ma voglio dire, un tanto accordo... quanto la cosa peggiore è non fare niente. Ecco, una eventuale firma senza la CGIL, ipotizziamo, insomma, è una delle ipotesi in campo, non svuoterebbe un po' la potenza, insomma, della riforma, visto i numeri, insomma, della CGIL, che è vero, non sono nel complesso, poi ci sono CISL, UIL, UGL, però insomma la CGIL come numeri sappiamo io che sono tanti. Io insisto ad auspicare e a ritenere possibile l'intesa tra tutte le organizzazioni, però è anche vero, come dice la Presidente Marcegaglia, che è un errore accettare il veto da parte di un'organizzazione, qualunque essa sia questa organizzazione, e il veto significherebbe la paralisi, significherebbe una situazione ancor peggiore di quella che lei paventa nel caso non ci sia l'unanime consenso. Quindi aspettiamo e vediamo con fiducia, perché nel momento in cui si sta determinando il consenso attorno al collegamento tra i salari e la produttività di tutte le organizzazioni dei datori di lavoro e di tutte le organizzazioni sindacali, con l'eccezione di una, peraltro ripeto, che non mi sembra proprio contraria, mi sembra in una posizione di perplessità, io confido che alla fine si determini un risultato positivo. D'altronde sono convinto che tutte le organizzazioni non potranno non tener conto del contesto nel quale ci troviamo, quello che ieri il governatore Draghi ha descritto, i pericoli di recessione, il bisogno di dare un impulso alla crescita del paese anche attraverso una più stretta collaborazione fra imprenditori e lavoratori, sostenuta da quella tassazione agevolata dell'oggetto della condivisione, della collaborazione, che è proprio la prospettiva di salari aggiuntivi definiti in azienda come espressione dei risultati che insieme le parti concorrono a determinare. È lì che la detassazione può intervenire, lei ha già detto su questo. Come ho detto. Sì, sentiamo un ascoltatore all'800 24 0024, Paolo da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei. Io stamattina ho sentito parlare di aiuti alle banche, alle imprese, la detassazione, ma volevo chiedere, la detassazione che vuol dire per una famiglia? Avere la capacità di spendere 5 euro in più al mese? E con questo si risolve la crisi. Io penso una cosa, sono un cinquantenne che è stato messo fuori dal mondo del lavoro 6 mesi fa, con una, quindi immobilitato, con una professionalità elevata, curriculum in giro ne ho mandati talmente tanti che non ne ricordo quanti, comunque sto facendo scriverò un libro, mi hanno chiamato solo quelle aziende a cui ho scritto il falso, nel senso mi sono dato 10 anni di meno, poi quando andavo lì ovviamente mi chiamavano perché il curriculum è importante, andavo lì sì. Ovviamente insomma lei dice la detassazione si riduce a poco, certo, va bene, di 5 euro al mese. I signori che stanno governando devono rendersi conto, io sono un loro elettore, ma fra quando torneremo alle elezioni, se ci sarà la recessione, tutte le persone come me voteranno al Partito Comunista, perché è l'unica cosa da fare a questo punto. Addirittura, non c'è più il Partito Comunista. C'è, ma è ridotto. Va bene, la ringrazio Paolo. Senta, Ministro, si risolve quello che lei dice, il progetto, la riforma contrattuale, quindi detassare anche gli incentivi, la parte dei contratti legati alla produttività, in quanto si può risolvere concretamente nei 5 euro al mese a cui faceva riferimento certamente Paolo? Certamente no, i 5 euro al mese di cui parla il nostro ascoltatore sono proprio quelli riferiti alla detassazione generalizzata degli straordinari, quella che io ho contestato, che non aiuta né la crescita, la produttività del lavoro né il reddito delle persone. Mentre invece la tassazione secca al 10% e non quindi con l'aliquota marginale che può essere del 33% per un lavoratore, di queste parti aggiuntive del salario può dare vantaggi significativi, può far valere un principio del lavorare di più e meglio per guadagnare di più e meglio, e credo che coloro che avranno la possibilità, ovviamente avendo un lavoro e lavorando in aziende performanti che raggiungono dei risultati, che sono in grado quindi di remunerare questo salario aggiuntivo, in questi casi un significativo vantaggio. Il nostro lavoratore peraltro ci pone un problema molto serio, quello di un cinquantenne, quindi una persona giovane che ha di fronte a sé un'aspettativa di vita di oltre 30 anni, che ci dice della difficoltà di rientrare nel mercato del lavoro nel momento in cui perde senza sua colpa il posto di lavoro. Noi dovremo cercare nei prossimi mesi di accentuare la protezione di queste persone, e a questo ci stiamo dedicando, da un lato rendendo più diffusi i cosiddetti ammortizzatori sociali, i sussidi al reddito di chi perde il posto di lavoro, e dall'altro cercando di rafforzare i modi con i quali accompagnarli ad un altro posto di lavoro. Stiamo ragionando intorno ad un piano di sostegno della disoccupazione. Ministro, le chiedo, Berlusconi ha detto non si risolvono i problemi andando in piazza. Lei che ne pensa della manifestazione? Perché Veltroni invece dice, ma come, 2 anni fa ha manifestato quelli che allora erano all'opposizione e oggi al governo, cioè Berlusconi, perché non potremmo scendere in piazza noi sabato? Lei che dice? Ma Berlusconi non contesta il diritto a manifestare, ovviamente. Ma fa una considerazione, mi sembra, di elementare buonsenso. Che significato ha una manifestazione a pochi mesi dall'insediamento del nuovo governo, nel vivo di una grande crisi finanziaria che può investire ora l'economia reale, l'occupazione? Che senso ha una manifestazione di questo tipo mentre invece non si determinano purtroppo i presupposti di un dialogo nelle sedi parlamentari, dove sarebbe necessario cercare di condividere molte delle misure per rispondere a questa crisi, dando un segnale al paese di unità nazionale. E si è visto nei giorni scorsi come ritorna lo Stato nazionale, lo Stato-nazione, e come sono i leaders dello Stato, degli Stati nazionali, che sedendosi ad un tavolo riescono a bloccare questa possibile involuzione della complessiva economia globale e possono riuscire a dare segnali di fiducia, di stabilità al sistema monetario, all'economia internazionale. Nell'ambito di questi paesi, questi leaders avrebbero bisogno in questo momento di avere un mandato quanto più unitario per rappresentare le ragioni di un singolo paese. Dice, non è il momento di andare in piazza, secondo lei? Credo che non sia proprio il momento, ripeto, a pochi mesi oltretutto dalle elezioni. Adriano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo rivolgere una domanda al ministro Sacconi, del quale riconosco i buoni principi di una visione globale generale del sistema. Orbene, questo tanto più positivo quanto nella sua compagine si vive di... Sì, faccia la domanda, Adriano. La domanda era questa, e cavalcava anche una sua intenzione. Secondo me, sbagliato scendere agli aiuti di Stato per le varie organizzazioni in un momento in cui si rischia di trasferire l'indebitamento delle industrie e addirittura delle banche ai consumatori, cioè al popolo, perché chiaramente questo stimolo potrà solo che accrescere l'indebitamento delle famiglie, che sono già oltremodo in crisi. Quindi il rischio che l'indebitamento delle banche si riverberi negativamente sui consumatori, su tutti noi, e io aggiungo, Ministro, anche sulle imprese. Lei dice bisogna vigilare che le linee di credito ci siano, ma voglio dire, non è ipotizzabile che le banche in questo momento stringano i cordoni della borsa, voglio dire, la fase di difficoltà c'è anche per loro. Credo che innanzitutto il nostro ascoltatore volesse segnalare il fatto che le nostre famiglie, per fortuna, non hanno avuto comportamenti come quelli che abbiamo riscontrato nelle società anglosassoni di eccessiva vocazione all'indebitamento, anzi la nostra famiglia rimane una famiglia che sa risparmiare e che, nonostante la perdita di potere d'acquisto di molti redditi, ha evitato un eccessivo indebitamento. Certo, è stata incoraggiata dalle condizioni generali ad acquistare la casa, anche una famiglia giovane, e questo spesso ha portato a un appesantimento dell'onere sui mutui a tasso variabile per le condizioni che, come sappiamo, si sono determinate. Però nell'insieme rimane un consumatore sano, un consumatore che sa valutare un corretto rapporto tra il proprio reddito e il proprio indebitamento. Inoltre la nostra famiglia rimane una famiglia ben patrimonializzata, l'83% possiede almeno una casa. E questo è un fondamentale importante per la nostra economia. Dall'altro lato, le aziende di credito, come abbiamo detto, non devono scaricare sul sistema delle imprese le loro preoccupazioni, la maggiore difficoltà che potrebbero trovare nel determinare utili da quanto esse stesse pagano il denaro che acquistano da altre banche. Sì. Insomma, è qui che dobbiamo lavorare. Noi dobbiamo lavorare su tutto ciò che può determinare interruzione di questo del circolo virtuoso che lega le aziende di credito ai risparmiatori, le aziende di credito alle imprese, le imprese ai consumi. Dobbiamo mantenere questa fluidità. Evitare, come ci siamo detti, che si interrompa questo, che si determini da un lato il panico, e credo che da questo punto di vista le misure prese omogeneamente nella dimensione europea, ma anche in modo coordinato nella dimensione globale, abbiano evitato questo fondamentale pericolo, ancora più grave di quello della recessione. Allora, le domande sono tantissime, Ministro, vediamo se riusciamo a raccogliere anche gli altri temi, e le chiedo anche, se possibile, di accorciare le risposte, così siamo incisivi. Alessandro da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. E innanzitutto congratulazioni per le vostre... Faccia la domanda. Sì, allora, volevo chiedere appunto cosa volevate fare per la, cosa si poteva fare per la natalità, cosa facevate voi come governo. Per la natalità? Natalità, sì. Si sentivo parlare di bonus bebè, poi non ne ho sentito più nulla. Tema interessante, in Francia, ministro, Grazie. Fare figli è una quasi, adesso non dico un affare, è una bruttissima parola, però voglio dire, fare figli, ci sono molti incentivi, ci sono molti soldi. In Italia no, c'è stato il bonus bebè una volta del precedente governo Berlusconi, però ecco, rispondo ad Alessandro, cosa si può fare concretamente per incentivare anche economicamente, purtroppo anche questo conta, per fare figli? Il bonus bebè è nel programma di governo, il che non significa che si possa realizzare nei primi mesi di attività del governo, tanto più nelle condizioni di finanza pubblica che ho prima ricordato. Ci sono due modi fondamentali, io credo, per garantire la crescita, per sostenere la crescita della natalità. L'uno è quello di consentire quanto più l'occupazione femminile, perché vanno di pari passo la natalità e l'occupazione femminile, in termini che però consentano alle donne di conciliare il tempo di lavoro con il tempo di famiglia, e qui sovvengono non solo le tipologie contrattuali che ciò possono consentire, ma anche i servizi di cura all'infanzia. E credo che occorra diffondere i servizi di cura all'infanzia in vario modo, non soltanto quindi con l'investimento pubblico diretto, ma anche favorendo investimenti privati in questo senso, gli asili aziendali, interaziendali, anche le reti interfamiliari che possono dare vita a dei servizi di cura tali da consentire alla madre di conciliare la maternità con il lavoro. Quindi il bonus bebè c'è, ci sarà, ma non si può ipotizzare da quando? Da quando, cioè, nel programma di governo ci sono ipotesi? Nel programma di governo, come è nel programma di governo una tassazione più favorevole alla composizione del nucleo familiare, cioè il ritorno dalle detrazioni che ha voluto il governo Prodi alle nostre deduzioni per carichi di famiglia, che evidentemente premiano di più il nucleo familiare. Il quoziente familiare. No, non è ancora il quoziente, è una cosa intermedia rispetto al quoziente, ma sarebbe già importante il ritorno alle deduzioni per carichi di famiglia, in modo che la tassazione locale non agisce sul reddito lordo, ma agisce sul reddito reso netto dalle deduzioni che sono state effettuate per i carichi di famiglia in proporzione ai familiari a carico. Cioè. Ministro, domani il decreto legge all'Italia va alla Camera, il governo ha posto la fiducia. Tra le misure previste, so che la IATA, cioè l'Organizzazione Mondiale delle Compagnie Aeree, ha spedito una lettera al ministro Scajola e anche a lei, perché sostanzialmente è previsto in questo decreto anche quella che viene definita sostanzialmente una tassa per finanziare la gestione degli esuberi di Alitalia, cioè l'aumento a 3 euro dell'addizionale comunale sui biglietti aerei per ogni passeggero ed ogni tratta. La IATA ha definito questa tassa inaccettabile perché è la prima volta che i consumatori finanzierebbero e sosterrebbero gli oneri del salvataggio di una compagnia, e esortando fortemente il governo a fare marcia indietro su questo. È ipotizzabile una marcia indietro su questi 3 euro di introduzione? No, perché questa tassa c'era già, era già di un euro, e come era stata accettata prima non c'è ragione che venga contestata in via di principio ora. È stata aumentata di 2 euro dunque? È stata aumentata di 2 euro perché necessariamente le parti sociali, non è stata neanche una autonoma decisione del governo nella trattativa, le parti hanno ipotizzato di questa misura per sostenere gli cosiddetti ammortizzatori sociali, ma che non sono solo per il personale di Alitalia, riguardano quello di Air One e quello di altre compagnie. Si tratta di alimentare di più quel fondo che era stato, noi abbiamo ereditato, era già stato prodotto negli anni trascorsi, con il quale si protegge il reddito dei lavoratori che perdono il posto di lavoro nell'ambito del trasporto aereo. Però, ministro, come pensa che possano reagire i consumatori? In fondo è un 2 euro in più per ogni tratta, per ogni passeggero, a partire da domani, sostanzialmente, da quando sarà in vigore il decreto che domani verrà approvato. Cioè è una tassa. Sì, purtroppo è una tassa di solidarietà nei confronti dei lavoratori che perdono il posto di lavoro in questo ambito, nell'ambito del trasporto aereo, ripeto, in generale, come tutte le imposizioni, come tutte le tasse, non è gradevole per niente. Ma queste sono le condizioni date. Il salvataggio dell'Italia richiedeva anche la protezione del reddito di questi, lavoratori, anche come ragione di consenso sociale, per evidenti motivi. Ministro, prima della pausa al traffico le chiedo, avrà visto le mobilitazioni in tutta Italia che continuano sulla questione della scuola, il decreto Gelmini, sulla questione sul fronte dell'università, torna al 68, torna la Pantera, torna al 77, si sentono questi slogan, lei che ne pensa? C'è tanto pregiudizio oppure c'è anche un fondo di verità in queste manifestazioni? Guardi, c'è molto pregiudizio, sono minoranze politicizzate, sono giovani presuntuosi talora che guidano queste manifestazioni, presuntuosi perché presumono di sapere, di avere capito tutto. Se lei guarda le interviste ricorrenti nei nostri telegiornali, sono politicizzati. Peccato che non fanno il loro interesse, l'interesse della loro generazione, che dovrebbe essere quello piuttosto di contestare una scuola e un'università molto autoreferenziali e rese autoreferenziali molto dai loro padri, dai figli di quella sfortunata stagione che sono stati gli anni 70, basta o il 68 come... forse. Sì, il 68 italiano in realtà comincia dopo, quando sì. Si esaurisce altrove, comincia da noi, in forme che sono arrivate perfino al terrorismo quarantennale e che soprattutto hanno introdotto una sorta di nichilismo nella nostra società. Credo che non sia un caso che le maggiori criticità si riscontrino proprio in alcuni corpi dello Stato, in particolare nel sistema educativo, ove una generazione di docenti appare molto cinica e autoreferenziale, non generalizziamo, ma quella componente ideologizzata figlia di quel tempo ha certamente, a mio avviso, assunto spesso queste caratteristiche. Come non vedere un'anomalia tutta italiana sulla quale i nostri giovani dovrebbero riflettere, il fatto che in Italia ci si laurea mediamente a 28 anni e non in ingegneria ma in scienza delle comunicazioni. Un ascoltatore, Carlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno signora, volevo dire all'onorevole Sacconi che prima delle votazioni avevano promesso di rivalutare le pensioni al di sotto dei 1000 euro. Ancora una volta, già la seconda volta, passate le elezioni, la parola pensione è sparita dal vocabolario. Le dico anche dove prendere i soldi, perché da un dato preso dal 24 ore ho letto che la corruzione nel settore pubblico provoca danni per lo Stato per 70.000 miliardi all'anno. Sì. Non si sente mai parlare di questa lotta alla corruzione nel settore pubblico. Allora, la questione pensioni ha posto un tema interessante. Aggiungo questo sms, così risponde a entrambi. Lia da Gallarate ci chiede, ministro, la scongiuro di rispondere. Verrà ancora erogata a noi pensionati al minimo 516 euro la quattordicesima, con cui il governo Prodi ci ha dato un po' di sollievo? Se può mettere le due risposte insieme. Rimane nel programma di governo la volontà di rivalutare soprattutto le pensioni più basse e credo che questo potrà essere fatto soprattutto cercando di definire un paniere che rifletta il costo della vita nella terza età, in modo che a quello si agganci la dinamica delle pensioni, soprattutto di quelle più basse. E questo è nel nostro programma. Come ho detto, la manovra è fatta, la manovra che c'è è conclusa e realizzata per quanto riguarda il 2009, il che non significa che non si debba preparare per il prossimo anno, sperando che le condizioni generali lo consentano, perché in questo momento prendere impegni di spesa aggiuntiva non è semplice, soprattutto di spesa corrente aggiuntiva. Dovremmo utilizzare molto la spesa per investimenti pubblici, perché cercare di rimettere in moto l'economia. Quindi nelle condizioni attuali quello che posso dire è la volontà di aiutare le persone più deboli tra gli anziani attraverso la nuova carta per acquisti che stiamo per lanciare, che conterrà un sostegno al reddito degli ultimi, di quelle persone che si trovano in una condizione di bisogno assoluto. Quando parte? A dicembre, credo. A dicembre. Credo che entro l'anno dovrebbe partire ha due pregi fondamentali. Individuiamo una platea di persone che si trovano in una condizione di bisogno assoluto, e molte di queste sono persone anziane, ma non solo, e allo stesso tempo costruiamo un'infrastruttura che poi potrà veicolare altre cose, come sconti per acquisto di generi di prima necessità sulla base di convenzioni con le organizzazioni della distribuzione, o come il più agevole accesso alle tariffe sociali, elettriche e ad altre. Ministro, le chiedo sul fronte della salute e sanità, insomma siamo quasi in conclusione, pochi minuti, prima le vorrò fare una domanda sulla questione dei conti della sanità, prima però le chiedo, un paio di giorni fa ha raccontato anche la sua esperienza personale di malato oncologico. Perché l'ha fatto? Perché si è sentito in dovere di farlo? Intanto le dirò che ero in un convegno dedicato ai modi con cui garantire la permanenza nel lavoro dei malati oncologici. Problema per il quale la legge Biagi aveva già introdotto una norma importante, che poi è stata estesa, quella del diritto al passaggio da tempo pieno a tempo parziale nella fase critica della malattia per il lavoratore, e poi il diritto anche a tornare a tempo pieno se si ricreano le condizioni per sopportare un lavoro a tempo pieno. Nell'ambito di questo tema ho detto: guardiamo al fatto che da un lato crescono molto le patologie oncologiche, sono purtroppo molto, molto diffuse, dall'altro per fortuna crescono anche coloro che sono i lungo sopravvissuti, come si suol dire, e tra i quali ci sono anch'io. Ho fatto solo quella battuta, come a dire, è molto normale, insomma, sia l'una che l'altra condizione, quindi evitiamo di considerare questa persona che ha attraversato questa esperienza come una persona da accantonare rispetto al mercato del lavoro. È fondamentale anche per la più compiuta guarigione che rimanga una persona attiva. Sulla questione dei costi, in Friuli Venezia Giulia i dipendenti della sanità costano mediamente 38.000 euro, in Campania 51.000, un posto letto in Lombardia 455 euro al giorno, al San Camillo di Roma 897 euro al giorno. Insomma, sappiamo che i conti sono pazzi della sanità. Intanto si stanno per dare 3 miliardi al Lazio per il buco della sanità. Allora, perché un lombardo, un veneto, un emiliano, un toscano, dove la sanità ha i conti più o meno a posto, dovrebbe dare, contribuire a questi soldi della sanità del Lazio? Come lo spieghiamo? Io condivido moltissimo questa domanda, come puoi immaginare, e tutta la battaglia politica che stiamo conducendo verso le regioni inefficienti è proprio ispirata a questo criterio. C'è un'equazione: le regioni che spendono di più garantiscono peggiori servizi. Quindi non c'è affatto un'equazione maggiore spesa, maggiore qualità o maggiori prestazioni. È proprio vera l'equazione contraria. Noi dobbiamo passare dal federalismo irresponsabile, che è quello prodotto con la riforma sanitaria 30 anni fa, al federalismo responsabile, cioè gli amministratori devono rispondere dell'equilibrio di bilancio, soprattutto della spesa sanitaria, che è l'83% della spesa corrente delle regioni, altrimenti scattano da un lato aumenti di pressione fiscale, ma poi anche deve scattare il commissariamento, e questa è la logica dei piani di rientro. E domani, con il federalismo fiscale, il fallimento politico, cioè il commissariamento intero della regione, il ritorno al voto. Questo vuol dire imporre delle deterrenze che responsabilizzano nel cambiare i modelli sociosanitari. Perché ci sono quei costi elevati nelle regioni del centro-sud? Essi sono determinati da un lato, ripeto, dall'irresponsabilità, dalla speranza che poi a piedi lista quei disavanzi vengano sempre coperti, e dall'altro dal fatto che sono stati mantenuti vecchi modelli organizzativi fondati sugli ospedali generalisti marginali, quelli sotto 120 posti letto, mentre invece essi vanno chiusi per sostituirli con una diffusa rete di servizi sociosanitari assistenziali, concentrando in pochi plessi ospedalieri le alte tecnologie e le alte professionalità che devono dare la risposta ai malati. Ministro, io ho già sforato, mi risponda davvero in 5 secondi, perché lo faccio a tutti coloro che hanno i doppi incarichi. D'altronde il Premier Berlusconi l'ha detto: chi è al governo si deve dimettere da parlamentare. Lo faccio no, a tutti. No, non l'ha detto. Scusi, non l'ha mai detto. No, ha sempre... non me l'ha mai chiesto. Personalmente non gliel'ha mai chiesto. Né a me né agli altri, mai. Quindi lei, secondo lei, sono assolutamente compatibili le due cariche, non pensa di mettersi? Da sono sempre state, io farò quello che tutto il mio gruppo parlamentare deciderà di fare, io faccio, obbedisco. Perfetto. Non mi è mai stato chiesto dal presidente Berlusconi, né a me né agli altri colleghi. Va bene, la ringrazio per essere stato con noi, Maurizio Sacconi, ministro, noi ci sentiamo domattina.